Ben ritrovati e ben ritrovate a La Fuga del Gatto, nuova puntata sempre su Radio Wombat, Wombat Radio, la radio del Wombat, come preferite, e ultima puntata del mese di febbraio e del 2017, anche questo mese ci lascia e se ne va, e chiudiamo in bellezza, direi, con sempre un compositore russo, perché questo mese ci siamo dati alla Russia. Poi c'è l'anniversario, insomma. È vero, facciamo come nelle radioserie e facciamo che ti salutiamo. Qui c'è Virginia con me accanto, la co-conduttrice, non mi riesce bene di dirlo questa cosa, co-conduttrice. E sì, vi parleremo di Mussorgsky. In realtà io devo dire che ho anche dei problemi nel pronunciarlo, come sempre tutto quello che riguarda il russo, però sì, confesso anche subito che non ne so veramente niente, né di Mussorgsky né della sua composizione che andremo a trattare oggi, ma piano piano La Fuga del Gatto serve anche a questo, a colmare le mie lacune, spero anche le vostre, anche se voi chiaramente ascoltatori della Fuga del Gatto siete un pubblico d'élite che probabilmente sapete già tutto, insomma. Chiaro. Molto colti, ma sì, oggi lascerò quasi completamente la parola a Virginia, perché davvero io getto la spugna, non so niente, ma quello che vi posso anticipare è che l'opera di cui andiamo a parlare oggi è Quadri da un'esposizione, ricordo di Victor Hartmann, e sì, effettivamente una composizione che è stata ripresa, riarrangiata, rifatta un po' da tanti, tra cui probabilmente il maggiore, il più ricordato è Maurice Ravel, ma di fatto ci sono varie interpretazioni anche inaspettate, inattese, lo vedremo in chiusura di trasmissione. E quindi niente, ti lascio subito la parola, così non sto a perdere tempo quando non so di cosa parlo. Allora, grazie. E, appunto, oggi parliamo più che di Mussorgsky, parliamo proprio di questa sua opera, perché appunto su Mussorgsky ci sarebbe da dire molto, moltissimo, magari lo faremo. In parte l'abbiamo già fatto, perché autocitazione nella puntata di Fantasia, che spero tutti voi si ricorderanno, Una notte su Monte Calvo, uno dei pezzi più noti, insomma, del film di Prisney, era appunto di Mussorgsky, bellissima, appunto il demone che si sveglia. Ah, questo lo sapevo, vedi? Hai visto? E quindi ecco, Mussorgsky famoso per, noto ai più per pezzi appunto come La notte su Monte Calvo e per questo quadro da un'esposizione che è rimasto poi celeberrimo. Paradossalmente, come molte composizioni di Mussorgsky, fu molto travagliata, la sua genesi fu piuttosto travagliata e tra l'altro fu dato alle stampe solo dopo la morte di Mussorgsky, per cui figuriamoci, lui non la considerava nemmeno probabilmente una grande, insomma, un'opera di grandissimo valore, non l'aveva mai voluta eseguire in vita, e insomma, paradossale pensare poi che invece è stata l'opera per cui, insomma, è famoso fondamentalmente. È stato ricordato. È stato ricordato, come diceva la Mari, anche perché orchestrata più e più volte da musicisti di calibro, appunto, di Ravel, ma anche poi le vedremo Leopold Stokowski negli anni 30, eccetera, eccetera. Per cui, Mussorgsky, appunto, crea questa composizione per pianoforte, perché proprio nasce come suite per pianoforte, non era un'opera sinfonica inizialmente, lo diventò solo nelle trascrizioni successive, ma questo lo vedremo. E appunto, proprio per la sua natura di suite, è divenuta anche un pezzo forte proprio per i pianisti, diciamo, per tutta una classe di musicisti che la utilizza per esprimersi al meglio. In realtà, appunto, l'opera si chiama, sottotitolo dell'opera, Il ricordo di Victor Hartmann. Perché? Chi è questo Victor Hartmann? Ecco, è la causa, il motivo, l'ispirazione di questa suite. Fu probabilmente nel 1870 che Mussorgsky conobbe l'artista ed architetto Victor Alexandrovich Hartmann. Probabilmente grazie all'intervento, insomma, dell'influente critico Vladimir Stasov, che li presentò, che era ammiratore di entrambi, appunto sia del musicista che dell'architetto, seguiva insomma, molto interessato alla loro attività. I due artisti svilupparono insomma questa grande amicizia e diciamo che aveva come collante anche l'appartenere a una corrente diciamo filosofica, artistica, estetica, che in quel momento si parla della Russia del diciamo intorno al 1860, ecco l'opera del 1874, quindi insomma si parla di questo periodo qui. Questo gruppo di artisti appunto aveva intellettuali, aspirava a creare un'arte che fosse un ritorno alle radici culturali folcloristiche della Russia. Cosa che peraltro insomma non era neanche strana al resto d'Europa, effettivamente. C'è un qualcosa che in tanti sentivano in quel periodo soprattutto, forse perché in un momento in cui i confini nazionali venivano messi continuamente in discussione, mescolati, eccetera, si sentiva, non vorrei usare la parola nazionalismo perché poi insomma nell'Ottocento ha preso una brutta piega. Un rifiuto un po' delle tradizioni straniere che erano sempre state... quelle più dei paesi più influenti come la Francia, no? Sì, quantomeno c'era bisogno nei paesi che altrimenti sentivano questa mancanza di ritrovare un po' le radici della propria cultura e un'appartenenza, quasi un'identità di un popolo fatto non dalla politica ma dalle radici culturali profonde. Si parla poi di un'Europa post-restaurazione, quindi che segue a tutto il periodo Napoleone e poi la restaurazione, quindi che comunque cerca di ribadire appunto la propria identità al di là dell'egemonia che era stata francese e anche se vuoi... Esatto, degli imperi. Insomma, dei grandi imperi, ecco, quindi in Russia in particolare, ma questo un po' caratterizza sempre la storia russa, perché se si pensa anche a artisti come Kandinsky successivamente, no, che ha proprio le radici al di là delle opere più vicine al contemporaneo, insomma, si vede le prime opere di Kandinsky sono proprio legate al folklore, cioè lui proprio girava la campagna russa. Tolstoi, accidenti, ne ha fatto una filosofia insomma, della sua scrittura. Quindi, ecco, diciamo, loro rientravano, per capirsi, in questo filone. E questo li accomunava. Hartmann poi morì improvvisamente per un aneurisma nel 1873, a soli 39 anni. In suo ricordo ebbe luogo, pare, non siamo sicuri, ma diciamo, le fonti dicono tra il febbraio e il marzo del 1874, una mostra all'Accademia Russa di Belle Arti, che aveva luogo a San Pietroburgo. Qui furono esposti circa 400 lavori. Mussorgsky, che aveva contribuito prestandone alcune opere dalla sua collezione personale, rimase molto colpito dalla vista della mostra e nel giro di poche settimane compose appunto i quadri di un'esposizione. Il compositore fu inoltre ispirato da disegni ed acquarelli prodotti dallo stesso Hartmann durante la sua carriera. E soprattutto Hartmann era ispirato dai suoi viaggi che aveva fatto appunto i suoi viaggi attraverso la Russia ma anche all'estero. Poi era un architetto, quindi aveva un occhio. Infatti un certo vedremo tipo poi nel viaggio. Esatto, vedremo poi dentro la suite appunto queste caratteristiche. Ad oggi la maggior parte dei lavori originali di Hartmann è andata perduta, rendendo quindi un po' impossibile identificare con certezza quali opere effettivamente abbiano ispirato Mussorgsky per i quadri da un'esposizione. Ci sono dei critici, insomma, dei storici dell'arte che hanno tentato un po' di collegare alcuni lavori di Hartmann a Mussorgsky, chiaramente sono un po' speculazioni, nel senso che Mussorgsky ha dato dei titoli precisi che fanno riferimento proprio a delle opere precise, come vedremo, e altri no. Comunque, insomma, diciamo, negli anni ecco, è stato tentato uno studio per trovare la corrispondenza, no? Per esempio nel 1939 un critico sostiene di aver identificato 7 quadri che sarebbero direttamente collegabili all'opera, tra cui appunto l'Ognomo, e vedremo che è una parte della suite, l'Ebreo ricco, e insomma tutti questi quadri secondo questo critico di Hartmann avrebbero corrispondenza precisa. Appunto, come vi dicevo prima, come tante delle opere di Mussorgsky, la sua genesi, anche un po' il destino di questa opera, fu molto travagliato e fu dato alle stampe appunto solo nel 1886, cioè 5 anni dopo la morte dell'autore, cioè la morte di Mussorgsky. A cura, tra l'altro, e questo è molto importante, dell'amico e compositore Nikolaj Rimsky-Korsakov, di cui comunque ci dovremo occupare prima o poi. Ci toccherà. Ci toccherà. E questi russi poi non finiscono mai, sono come le matriosche, no? Tiri fuori uno Ne sapevano, d'altra parte. Sì, loro erano così. E meglio che non stiamo parlando dei tedeschi, qua, no, vabbè, perché sennò proprio si vuole una, si apriva. Si apriva un capitolone. Korsakov era però convinto che nel manoscritto originale della suite fossero presenti molti errori, musicisti insomma, cercano sempre di farsi le pulci, che riteneva necessario correggere. Quindi non pubblicò la partitura originale, ma apportò parecchie modifiche. Ecco, questa cosa io la odio, quello, ma pensa te, ma come ti pare veramente? Ora vabbè che sei Korsakov, ma fatti i cazzi tuoi, ma sì, comunque. Quindi solo nel 1931, molto molto tempo dopo, l'opera fu pubblicata in accordo al manoscritto originale di Mussorgsky, cioè fu recuperato l'originale, che venne poi pubblicato in facsimile addirittura nel 1975. Quindi, allora, io direi, si può già far sentire l'ascolto. Sì. E, ecco. Anche perché così, secondo me, già col primo ascolto si capisce di cosa stiamo parlando. Esatto, perché la struttura è proprio, poi lo diremo, è proprio composta così, immaginandosi un ipotetico visitatore di una mostra, di una galleria d'arte, che attraversa proprio il corridoio, fisicamente vi dovete immaginare proprio questo, e lui appunto attraversa, si sofferma davanti a ogni quadro ha un tema diverso, ovviamente, quindi da impressioni diverse, e ciò che collega ogni quadro all'altro, cioè ogni tableau, proprio, che poi in musica si dice tra l'altro in francese nello stesso modo, è una promenade, quindi una passeggiata, quindi no? E, promenade, cioè cammino, quadro, chiaramente sentiremo sia della promenade, per esempio, sentiremo sia la versione soltanto suite per piano, che quella orchestrata. Sinfonica, giusto? Sì, anche perché così avete modo di capire un po' sì, la differenza, che ovviamente sta nel fatto di strumentazioni diverse, ma non solo, ad esempio cambia molto il tempo, se notate la prima versione che faremo sentire è quella originale di Mussorgsky in piano, cioè solo pianoforte. La seconda invece è la versione orchestrale, e c'è una notevole differenza tra l'una e l'altra di ritmica, cioè di ritmica, di durata proprio. Sì. E anche lì varia tantissimo da arrangiamento a arrangiamento, soprattutto quando si parla di arrangiamenti orchestrali. Ci sono degli arrangiamenti, e la durata media di questo pezzo indicativamente è intorno a un minuto e un quarto, un minuto e quindici, ma in realtà ci sono degli arrangiamenti per orchestra che durano 2 minuti e passa. Quindi insomma immaginate che il tempo viene dilatato non poco nella versione orchestrale, o viceversa, viene molto accelerato. Quindi insomma un discreto grado di libertà di interpretazione. C'è da dire anche che la promenade, che ha all'interno il tema principale, poi riconoscerete che è sempre uguale, appunto siccome tra ogni quadro, quindi tra ogni tableau c'è una promenade, non tutte le promenade sono uguali, sì. Cioè, chiaramente, anche se sono molto simili, però per esempio appunto la suite è composta da 15 brani, 10 ispirati ai quadri e 5 promenade, che rappresentano, come vi dicevo, il movimento tra un quadro e l'altro. Non tutte le promenade sono uguali, hanno anche il tema principale diverse. Sì, il tema principale è lo stesso ovviamente, ma appunto con variazioni più o meno sensibili, quindi di tonalità, appunto di durata e di dinamica, eccetera. Insomma, chiaramente sono riconoscibili perché sono proprio i pezzettini che ritornano Sì, poi è continuamente. uno di quei pezzettini proprio quasi pop che ti restano in testa. Esatto, che la ripetizione di questo tema, come diceva la Maria, molto orecchiabile, serve proprio da coesione, perché i tableau sono veramente molto diversi l'uno dall'altro, no? Anche se composti dallo stesso autore, però sono davvero molto, molto Ah, sì. differenziati, e quindi serviva, no? Appunto Un un legante. legame che unisse questi episodi molto diversi l'uno Eh all'altro. sì, devo dire che funziona questa cosa. Sì, ma poi Non era un pivello, no, non questo. era proprio un ragazzo, insomma, un pochino ci sapeva fare. Sentiamocelo allora. Sentiamo la prima versione soltanto col piano e abbiamo questa versione, vabbè, Promenade in Si bemolle maggiore e l'esecuzione è di Nikolaj Demidenko. Sentiamocela. Tagliata un po' brutale, purtroppo diversi di questi brani che vi faremo sentire oggi sono tagliati un po' brutalmente, ma d'altra parte, insomma, tagliare la musica in questa maniera quando si parla di composizioni così lunghe è sempre un po' difficile. Ora vi facciamo sentire subito a botta, così non, a bomba, così non vi siete dimenticati cosa avete appena ascoltato, la versione invece per orchestra. Dall'esecuzione della Philadelphia Orchestra e non c'è tantissima differenza di ritmo, cioè di durata, lo sentirete, ma insomma le differenze sono direi enormi. Sì, non so se, insomma, rendiamo l'idea. Ecco, Parecchio differente. a microfoni spenti dicevamo che sì, spettegolavamo su quanto, insomma, ci sembrassero strane le scelte. di questo arrangiamento, appunto questa tromba molto squillante, quasi da marcia un Sì, è un po'. po' più solenne, cioè nel senso nel carattere evocativo, cioè ha questo carattere più evocativo da grand air, piuttosto che magari nella suite invece, un po' perché è solo per piano e quindi Eh inevitabilmente, un po' sì. perché comunque secondo me nell'idea di Mussorgsky era un viaggio al di là dei quadri in sé, che hanno dei momenti anche pubblici, appunto vedremo il mercato di Limoges, piuttosto che la porta di Kiev, ci sono dei quadri pubblici, però la promenade secondo me era molto, un momento molto intimo in cui lo Sei al spettatore museo, passava, non è che ora proprio che ti metti così, a cioè, capito, marciare. fatta così, però quella Ravel gli scappava sempre la mano, perché lui secondo me era un po' così, un po' da, Oh. era così, un po' da marcione, capito? D'altra parte. E dicevamo, infatti, per collegarci a questo, che l'opera presenta dei caratteri fortemente sperimentali, paradossalmente, no? Nonostante lui fosse indicato, inserito, anche per sua volontà in questo, appunto, questa compagine filosofica del ritorno alle origini, in realtà, essendo a cavallo poi tra l'Ottocento e il Novecento, inevitabilmente questo, forse anche a sua insaputa, non se ne era reso troppo conto, però di fatto il pianismo che lui usa, no? Il modo che è di tipo proprio percussivo, taglia completamente i ponti con la tradizione romantica esistente fino a quel momento, no? Quindi si parla di, come si è parlato in altre puntate, di Tchaikovsky, insomma, di tutta Eh sì. quell'eredità romantica, che soprattutto in Russia era molto potente, molto caratterizzante, e apre le porte invece Mussorgsky, proprio paradossalmente, ma non solo con quest'opera, anzi forse più con altre, alla musica del Novecento. Non meno moderno, si presenta infatti anche il linguaggio armonico grazie all'uso massiccio di pedali e accordi Sì, dissonanti. questa cosa la si sente tantissimo anche in questa prima promenade che vi abbiamo fatto sentire, insomma. Eh sì, appunto, c'è proprio un'apertura, c'è proprio un po' una cesura con tutto quello che era stato e un po' veramente si sente, soprattutto probabilmente appunto se si sente fatta per il piano, perché già se si sente fatta con Sì. l'orchestrazione appunto molto grand air alla Ravel, si perde un po', ma se si Sì, si sente la annacqua. suite per piano si sente proprio dei caratteri che sono già diciamo, agganciati no, al Novecento, davvero al primo Novecento, quindi a Schoenberg, alla decostruzione, non voglio andare troppo in là, alla scuola di Vienna, però insomma, di base, ecco, davvero come tutti gli artisti a cavallo, no, tra 2 secoli, ovviamente, anche un po' forse inconsapevolmente. E questo è anche molto simile a poi i dipinti che Mussorgsky voleva illustrare, perché c'è qualcosa di terribilmente dissonante anche nelle opere di Hartmann, in realtà, Ah, se le andiamo a sì. vedere, apparentemente tranquille, apparentemente quasi al limite del collezioso quasi, Sì. e poi in realtà invece con sempre qualcosa di dissonante, di strano, di inquietante. Sì, tra l'altro apparentemente legate molto alla tradizione, vedremo appunto no, la strega Baba Yaga, la porta di Kiev, quindi opere storiche, quindi musicali, poi legate alla Tradizionale. tradizione russa, ma poi in realtà al loro interno che vanno molto verso il contemporaneo, quindi hanno dei caratteri anche fortemente, perché ovviamente anche nella pittura, questo è nell'arte in generale, nelle arti visive, era un momento di passaggio, per cui c'era tutta una tradizione ancora legata, no, alla vecchia scuola e qualcosa di nuovo che si stava affacciando, per cui ovviamente lui riesce un po' a dare questo anche nella scelta dei tableau, dei personaggi, il cui appunto primo, se non sbaglio, ascolto, l'Ognomo. Eh sì. L'Ognomo è il primo quadro, dopo la Promenade, ovviamente, dopo la prima Promenade, e rappresenta la storia, appunto, narra appunto la storia di questo nano malvagio che si aggira nella foresta. La musica è caratterizzata da tempi contrastanti, da frequenti fermate e riprese e da un alternarsi di forte, pianissimo e fortissimo. E qui, appunto, per collegarsi a quello che si diceva prima, che rappresentano i vari movimenti dell'ognomo che sono molto, appunto, non fluidi, non omogenei, ma molto, molto strani, molto particolari. Ravel, nella trascrizione per orchestra, affida il tema principale agli archi, specialmente ai violoncelli ed è contrappassi. Il titolo originale è Gnomus, in latino proprio, vedremo anche altri quadri, ed è in Mi bemolle minore. Sì, Mi bemolle minore e il tempo è in alternanza vivo, meno mosso e pesante. E, sì, sentiamocelo subito. Almeno... Sì, un piccolo inciso, non abbiamo detto che questa opera è stata utilizzata molto anche per balletto, cioè è stata una musica di balletti, perché ovviamente si presta molto, no? I quadri sì. Si animano, addirittura poi più avanti ci sarà un pezzo proprio immaginato già come un balletto. E quindi anche questo dello gnomo, per chi non l'ha visto, per chi l'avesse visto, insomma, è molto bello appunto perché il ballerino principale... in sembianze di gnomo, insomma, esegue una coreografia su queste musiche, si prestava molto ovviamente, la promenade, i quadri, cioè è proprio, non era nata come musica per balletto, però alla fine un po' lo è diventata. Lo era di fatto. Sì, la durata è all'incirca 4 minuti e la versione che vi facciamo sentire, come del resto anche quelle a venire dei prossimi pezzi, sono tutte nella versione originale per piano, per solo piano, non vi facciamo più far sentire le versioni orchestrali. In questo caso Gnomus è nella esecuzione di Vladimir Ashkenazy. Sì, secondo me si dice così. Anche secondo me. Va bene. Sentitevi lo gnomo. Thank you. E sempre Mussorgsky, sempre quadri da un'esposizione. Questo era Gnomus o Gnomo, come preferite, nell'esecuzione appunto di Vladimir Ashkenazy. Sì, avreste sicuramente riconosciuto il microtema, perché poi Che ritorna, sì. sì, che risuona continuamente e che appunto nella versione orchestrata è appunto, probabilmente ora non me lo ricordo, però fatto con gli archi e che ritorna poi nel pezzo e che è molto appunto molto accattivante, rimane molto in mente anche questo, no? Cioè uno quando lo sente dice, ah, ecco cos'era, Ah sì, come ho fatto io. era quello, era lui, era lo gnomo. Proseguendo la nostra camminata tra i quadri di un'esposizione, incontriamo altri pezzi e altre promenade, appunto, perché ognuna è tra un quadro e l'altro. Prima del prossimo ascolto vorrei comunque citare, anche se non si sentono tutti, gli altri pezzi, perché Sì. dopo lo gnomo si incontra il vecchio castello, che è anche questo molto bello, una scena che si svolge ai tempi nella Francia dei trovatori, quindi in un paesaggio Medioevo. medievale, soffuso, molto, appunto, molto triste, molto, molto evocativo, e appunto è il successivo. Poi di nuovo una promenade, sempre un po' differente appunto dalle precedenti, poi Tuileries, quindi proprio le Tuileries come luogo del francese, perché appunto qui si comincia proprio, no, a capire che ci si sta spostando in Europa, fondamentalmente, che Chissà si sta come andando mai in Ravel mondo. poi gli è piaciuta. Infatti, perché appunto, come si diceva, Hartmann aveva disegnato, insomma, eseguito una serie di opere proprio nei suoi viaggi, e quindi appunto per Mussorgsky, no, i luoghi sono evocativi, appunto dal castello francese passiamo alle Tuileries. Litigio di fanciulli dopo il gioco, quindi anche direi i titoli sono molto specifici, molto descrittivi, proprio perché appunto sono tableau, no? E che devono essere poi vivants, cioè devono prendere vita e appunto intrattenerci. Qui alcuni bambini giocano nei giardini del parco parigino delle Tuileries, sotto lo sguardo attento delle governanti. Per rappresentare il litigio dei bambini, Mussorgsky scelse un motivo basato sul tipico intervallo delle canzoncine infantili, quindi molto bellino, anche questo è interessante. Sì, poi con gli scatti di sedicesimi, quindi insomma una roba anche da un punto di vista virtuosistico non Eh no, banale. appunto, infatti, questi sono pezzi che per i pianisti, insomma, sono molto prestigiosi da eseguire. Dopo le Tuileries c'è Bidlo, dal polacco Bidlo, Bah, questo sì. è interessante, lo vorrei citare, non si sente, ma lo vorrei citare perché è proprio, ha delle componenti veramente contemporanee come concezione, perché non è nient'altro che la storia di un carro, perché il Bidlo è il carro caratteristico dei contadini polacchi, e, che ha le ruote molto alte, molto pesante, trainato faticosamente. E è molto bello perché il carro cioè il brano segue l'avvicinarsi del carro e il suo di partire dalla scena, quindi non solo il tema musicale, ma il concetto di volume vicino lontano, cioè giocare Di con dinamica. questo di dinamica è una cosa veramente moderna, nel senso proprio, no? E ti dà poi anche l'idea forse della profondità di questo carro che quasi vuole uscire dal quadro e poi si risposta come se fosse stata un'allucinazione del visitatore, no? Bello, bellissimo, cioè veramente un concetto secondo me molto, molto moderno, molto nuovo per l'epoca. Sì, in qualche modo anche sognante, come era tipico della cultura russa, del resto, non a caso. Sì. Infatti il carro, che il brano inizia in fortissimo, suggerendo che il viaggio del carro, no, inizi vicino all'ascoltatore, poi dopo aver raggiunto un climax con tutta forza, l'indicazione diventa improvvisamente piano, quindi no, appunto, come vi dicevo, il carro si allontana, seguita da un diminuendo e un finale in pianissimo. Quindi proprio, no, questo movimento del carro, indicato da, appunto, già in partitura proprio. E questo, anche qui l'edizione curata da Rimsky-Korsakov e quella di Ravel è un po' diversa, iniziano piano, presentano successivamente un crescendo fortissimo e poi un diminuendo, quindi ovviamente successivamente gli vennero fatte queste modifiche per dare un maggior senso di profondità. Arriviamo attraverso un'altra promenade al balletto dei pulcini nei loro gusci. Ecco, qui proprio si esemplifica la natura di questo tableau ideato proprio pensando a un balletto, perché i ballerini travestiti da pulcini escono dall'uovo, quindi proprio il quadro, che c'è, proprio si trova anche l'immagine del quadro di appaiato al quadro di Hartmann, era una scena appunto dell'autore per il balletto Trilby, quindi era proprio una scena disegnata da Hartmann per questo balletto, in cui gli allievi di una scuola di arte drammatica dovevano esibirsi come pulcini, appunto, come pulcini che escono dall'uovo, e c'era questa scena. Che tristezza, la tipica non lo so, il saggio, esatto, delle medie con i bambini vestiti a pulcini. Esatto. Oioi. Questo brano presenta acciaccature quasi in ogni misura o battuta, e in generale molti abbellimenti che indicano i movimenti dei pulcini. Inizia in fa maggiore, poi transita in altre tonalità ed è composto in forma tripartita, quindi A, B, A, con una ripetizione letterale ed una breve coda. Sì, cioè, niente di tutto ciò, anche se il carattere è estremamente leggero, se vogliamo, trasognato, ma anche leggero e, qui siamo su una tonalità maggiore, quindi in qualche modo che ti porta verso un'apertura, eccetera, in realtà è tutto molto complesso, la struttura che ci sta sotto non è assolutamente semplice, è costruitissima, pensata nel dettaglio, tant'è che la sensazione che hai è di un quadro, sì, ma di un quadro, non so, quasi impressionista, nel senso che se poi lo vai a vedere nel dettaglio è fatto di tante piccole pennellate molto diverse tra loro, ecco. Io direi che si può ascoltare. Sentiamocelo, sì, così vi diamo... Balletto dei pulcini nel proprio gusto. Allora, sì, abbiamo detto la tonalità è fa maggiore, il tempo scherzino. Scherzino. Oh, che bello. Vivo, leggero, trio. Sì, così è. E là è l'esecuzione, abbiamo tanti Vladimir ovviamente in questa puntata, ma questa volta è Vladimir Horowitz, e niente, la durata è molto breve, siamo su poco più di un minuto, il balletto dei pulcini. No? Mica questi pulcini, ragazzi. Mica robetta. No. E gliene davano secche. Sì, e dopo questa buffa continuazione, dopo la promenade, il nuovo tableau, passiamo oltre, no? Sì, passiamo oltre. Il pezzo successivo, appunto, ai pulcini è Samuel Goldberg e Shmuel, scusate, io non sono brava con la pronuncia ebraica e non me ne vergogno, vi dirò, che è la storia di due ebrei polacchi che si incontrano, insomma, è una storia un po', appunto, tratta dalla tradizione ebraica, quindi appunto un po' così. Si continua con la promenade fino a Limoges, il mercato, sottotitolo La grande notizia, anche qui, ta-da, ecco un'altra scena molto, molto pubblica, chiacchierata tra le contadine nella piazza del mercato di Limoges, che degenera poi in una lite rumorosa. Nell'originale di Mussorgsky il pezzo era preceduto da un preambolo scritto, pensate proprio che si leggeva, poi depennato, in cui si spiegavano i motivi della lite, perché comunque Mussorgsky era un ragazzo preciso, non è che adesso qui, sì, insomma, e questo era, quindi anche qui sì, proprio buffa l'attenzione ai dettagli. Beh, anche perché insomma era un po' il centro della sua poetica, anche sì, il fatto di dare attenzione alle cose apparentemente scene, minimali, sì, e poi alle scene molto anche appunto collettive, rurali, legate appunto. Anche qui questo, il romanticismo veramente si sta perdendo, l'idea dell'artista solo sullo scoglio con lo Sturm und Drang. Cioè, ecco, sì, cioè, qui si sta andando veramente verso una dimensione di una sonorità a più voci, collettiva, che rappresenta anche un po' la folla, anche un po'. Meno male. Sì, si sta perdendo un po', no? L'era credo, allora, non lo so, poi magari sbaglio, però mi sembra un po' così. Proseguendo si trova subito attaccato proprio questa volta senza la promenade d'intermezzo il pezzo Catacombe, sepolcro romano con i morti in una lingua morta, e qui insomma c'è proprio da buttarsi via dalle risate, sì si passa dai pulcini alle catacombe al mercato, e qui c'è proprio un riferimento preciso ad un quadro di Hartmann che si chiamava Catacombe appunto, e questo è diviso in due parti. La prima è quasi appunto molto statica, no? Largo, si dice, che consiste in una sequenza di accordi con melodie elegiache che raggiungono un tocco di malinconia. La seconda è più cupa e più fluente, con un andante che introduce nella scena il tema della promenade. Quindi anche qui addirittura in questo pezzo, siccome non c'era prima, cioè, ci viene introdotta durante, nella seconda parte, a fine pezzo. Il soggetto è appunto lo stesso Hartmann, addirittura, faccio una correzione, ho detto un quadro, è proprio lui, che al lume di una lanterna visita le catacombe di Parigi. Quindi proprio questo quadro che aveva dipinto era proprio un po' un autoritratto, no? E Mussorgsky se lo immagina proprio come il suo amico, appunto Hartmann, che visita le catacombe, i sotterranei di Parigi, no? Che sono dotati di tantissime gallerie. Eh sì, sono una città belle, sotto la visitabili, città. Visitabili, la città dei morti, appunto. E appunto l'autografo del compositore, cioè il pezzo autografo, il manoscritto originale di Mussorgsky, spiega: lo spirito creatore del defunto Hartmann mi conduce verso i teschi e li invoca, questi si illuminano dolcemente al loro interno. Quindi già molto scenografica tutta questa cosa, no? Cioè questo proprio artistico, cioè i teschi illuminati, le catacombe. Paura, sì, raccapriccio. Sì, paura e raccapriccio, perché comunque Kattivik di sicuro sta nelle catacombe, cioè dove lo puoi trovare? Sì. Per cui la prima sezione, alternando accordi potenti e morbidi, evoca la grandezza, l'immobilità e l'eco delle catacombe. La seconda fa emergere un osservatore nella scena che discende nelle catacombe, che è lo stesso Hartmann, secondo Mussorgsky. Eh sì, la tonalità è sì minore ovviamente, e il tempo, come abbiamo detto, è diviso in due sezioni, largo, sepulcrum, tra parentesi, e la seconda, andante, non troppo, con lamento, con mortuis, cioè, queste sono le indicazioni. Tante volte gli sì, fosse, ti venisse sì, un dubbio. Sì, di farla un po' che c'era saltellante. Un rave sotto le catacombe, no. No. Scordarselo, no. Come nei filmacci americani, ma non è così. Per niente. E quindi Catacombe, l'esecuzione questa volta è di Sviatoslav Richter. Ah, ormai proprio, cioè, te lo bevi, Hai visto com'è? Ormai sì, andato. Chissà che ho detto. Ah, vabbè. Eh sì, Sviatoslav. Sembrava ma bello. Bravi vera. Mi piace Sviatoslav. Bello, sì. Va bene. E niente, le catacombe. Thank you. Sì, direi un tenore decisamente più cupo del pezzo che vi avevamo fatto sentire prima, ma vabbè, alla fuga del gatto siamo così, alti e È così, bassi, un po' alle si stelle, danno e un alle po' si stalle. Eh prendono. sì, spesso sì. Sì. Ecco, proseguiamo con uno dei pezzi più noti, tra l'altro vorrei dire questo, di questa composizione, anche perché appunto è un personaggio della tradizione russa, proprio della tradizione folcloristica, dei personaggi, delle fiabe, La capanna sulle zampe di gallina, Cioè, il che titolo veramente comunque non è, no, migliore. infatti, Baba Yaga, chiaramente, Baba Sì. Yaga è la strega. La capanna sulle zampe di gallina è buffo perché vedremo la casa di Baba Yaga, il suo antro, l'antro della strega, è proprio riportato in un acquarello di Hartmann, che ritrae un orologio, quindi un orologio appunto della produzione russa tradizionale, che è fatto proprio con queste, immaginate un vecchio orologio a cucù con le due zampe di gallina incrociate sopra di legno che rappresenta la casa della strega. Quindi buffo, cioè proprio artigianato Visivo. folcloristico, proprio disegnato da Hartmann e da cui appunto Mussorgsky prese. Il quadro musicale illustra l'incedere della strega Baba Yaga, essere grottesco, raffigurato presso la sua dimora, un orologio a cucù, cioè lei vive proprio nell'orologio a cucù, sorretto da zampe di gallina. La musica esprime la paura del compositore nel visitare l'orribile antro. Il brano è uno scherzo feroce con una sezione centrale, lenta. I suoi motivi evocano i rintocchi di un grande orologio, che è appunto l'orologio della casa, la strega. E di suoni di un inseguimento frenetico. Strutturalmente il movimento rispecchia alcuni aspetti grotteschi che sono già presenti nello gnomo, il primo che abbiamo sentito, su scala però maggiore, che cioè, lo gnomo era pericolosità 5, la Baba Eh Yaga no, insomma eh. 10, Ma quindi. io tra l'altro la mia scarsissima esperienza con i russi mi fa dire che comunque Baba Yaga è un personaggio veramente Eh temuto. Cioè, sì. non si scherza con Baba Terrorizzante, Yaga. cioè una strega Non è potente. come le streghe nostre delle fiabe Vero. italiane, che sì, sono inquietanti. Io penso alle fiabe, non so, del Casentini. Avete mai letto le fiabe casentinesi? Sono una roba veramente Sì, oppure raccapricciante. anche le streghe, quelle appunto, no? Alla fratella di Grimm, di Eh Biancaneve, sì, piuttosto che sì, fanno paura, però però insomma, sì, alla fine. alla fine sì, fanno paura, ma non è che te le porti fin da grande addosso. Invece Baba Yaga fa proprio paura e Ragazzi, non ci si deve no, perché scherzare, comunque in Russia sono tempacci, non è cioè. Sì. che. L'andante centrale del pezzo è uno dei momenti più impegnativi di tutta la suite per chi la deve eseguire, in questo caso per il pianista, perché presenta per tutta la sua durata un tremolo di terzine e di semicrome. Può capire, Ecco, c'è una roba che punto. da urlare e andare, altro è Baba Yaga. Esatto, e appunto, no? Cioè, il pezzo spaventa proprio in generale. Sì. Anche questo brano è in forma tripartita, quindi ABA, con una coda che conduce direttamente al primo accordo del successivo ed ultimo brano. E qui ve lo devo introdurre, per forza ora, perché sono attaccati. Quindi sono proprio. Questo era il penultimo, e poi c'è l'ultimo. L'ultimo brano, e che è anche il nostro ultimo ascolto, se non Sì, sbaglio. io spero che, perché io ce l'ho separati Ah, vabbè. e spero che non siano eccessivamente, come si dice, sì, staccati, che non ci sia uno stacco troppo drastico tra i Speriamo di due. no. Io intanto Vedremo. l'introduco così poi siamo a Sì, posto. brava. E la grande porta nella capitale di Kiev. Quindi Hartmann progettò una porta monumentale, cioè proprio l'aveva progettata, in onore dello zar Alessandro II, per commemorare tentativo. No. Allora, lo zar, vedi, mi sento male quando dico queste cose perché Ma è poi. Baba Yaga, è il problema. No. Lo zar era scampato a un tentativo di assassinio nell'aprile dell'866, quindi era stato festeggiato, pensate. Vabbè. Egli lo riteneva il miglior lavoro che avesse mai fatto, quindi proprio era fiero di questo progetto. In effetti, il suo progetto risultò vincitore di un concorso nazionale, ma poi i piani per costruire la struttura furono abbandonati. Cioè, storia, Beh. cioè vedi, la storia si ripete. Sì. Il movimento, composto da Mussorgsky, presenta un grandioso tema principale, quasi a glorificare la promenade di apertura. no? Perché appunto ritorna di nuovo il tema della promenade di apertura, perché questa è la chiusura, quindi chiaramente. Così come Baba Yaga amplifica lo gnomo, questo pezzo amplifica la promenade, cioè serve da eco al tema della promenade. Il solenne tema secondario è basato su un inno battesimale tratto dal repertorio di canti della Chiesa Ortodossa Russa. Pensate, il pezzo ha la forma di un ampio rondò e diviso in due sezioni principali. La prima parte del movimento rispetta la struttura di uno schema appunto ABABA. La sua brusca interruzione con una nuova musica appena prima della sua conclusione dà al resto del movimento un senso di vastità, cioè lui fa proprio questo scatto, no? Interrompe e immette una nuova musica prima della conclusione che uno si attende. Quindi anche in questo di nuovo Mussorgsky scompiglia un po' le carte, ti bastona, sì. della composizione tradizionale. La sua, appunto, sì, dicevo, la sua conclusione appunto rende questo senso di vastità, e questo esteso congedo fa da coda alla suite in tutto il suo complesso. Cioè questo è proprio l'addio, la fine del nostro percorso, la chiusura, l'uscita dalla galleria dei quadri e la conclusione. Quindi è diviso a più parti, a più temi, proprio contati 8, tema principale, tema dell'inno, tema principale di nuovo, tema dell'inno, interludio, tema principale, interludio, tema principale. Cioè sono proprio alternati. Chiaramente cambiano al loro interno, piano, fortissimo, forte, ovviamente cambiano la dinamica. E questo è, quindi Baba Yaga e poi La Porta di Kiev. Eh sì, a questo punto vi salutiamo subito, giusto? Sì, c'è da fare soltanto dopo alla fine l'appendice delle curiosità. Allora non vi salutiamo. Allora non vi salutiamo subito. Prima vi facciamo sentire gli ultimi due pezzi. Forse e poi non sapevate che. Cioè, esatto, con la rubrichetta finale veloce, vi facciamo. Sì. Quindi non scappate via dopo la musica spaventati. No, come nei film della Marvel, non si esce prima. No, perché c'è sempre il pezzettino. Eh sì, è vero, c'è la ghost track. Sì. E quindi, ricapitolando, prima ci andiamo a sentire La Capanna sulle zampe di gallina, anche detto Baba Yaga, in do minore, il tempo è allegro con brio, feroce, andante mosso e allegro molto. Feroce. Nell'esecuzione abbiamo scelto di Kazumasa Matsumoto, giusto per uscire un po' dall'Europa. E invece l'ultimo pezzo che vi facciamo sentire è La Grande Porta nella capitale Kiev, la tonalità è Mi bemolle maggiore e il tempo è allegro alla breve, maestoso, con grandezza. L'esecuzione è un'altra volta del mio amico Sviatoslav Richter. È lui. Esatto. Thank you. Thank you. sì, gli applausi, grazie. Sì, sì, c'era una bordata di applausi. Grazie. Effettivamente era un pezzo per 20 per mani. Per mostri, sì, veramente. Della 20 mani multiple per questo pezzo. Quindi, insomma, gli applausi, direi una ventina di applausi e ovazioni. Forse questi ultimi due pezzi sono veramente tra i più belli. Sia Baba Yaga che La Porta di Kiev sono veramente belli e molto vicini proprio alle cose più contemporanee, veramente, della musica del Novecento. Cioè, davvero... Eh sì, ma infatti appunto le ultime cose che vi vogliamo dire, che d'altra parte in effetti le abbiamo accennate all'inizio, noi vi abbiamo fatto sentire quasi tutte le versioni originali per solo piano, ma questo pezzo, insomma, ha dato il là a tantissime versioni per orchestra. E a vari rimaneggiamenti. Sì, e si veramente sono sbizzarriti. Sì, è stato uno dei pezzi più rimaneggiati della storia della musica classica, è un po' per come è fatto, anche che permette un po' di scomporlo, no? È un po' proprio per la sua storia e forse non tutti sanno che, infatti, lo stesso Mussorgsky si rendeva conto del potere seduttivo che la sua opera avrebbe avuto sui grandi orchestratori, e musicisti contemporanei, primo fra tutti appunto Rimsky-Korsakov, che manifestò da subito il desiderio di trascrivere per orchestra i quadri, cioè non contento di avergli corretto la suite, guarda, veramente... poi voleva pure orchestrarla, nonostante l'anatema lanciatogli dall'autore, cioè Mussorgsky gli disse proprio, e apro virgolette, che ti si secchi l'inchiostro nella penna. Sì. In russo secondo me suona anche più minaccioso. Sì, secondo me la trasposizione è stata un po' edulcorata. Infatti, esatto. Nel tempo. Anatema che ebbe il suo effetto, visto che il lavoro, cioè l'orchestrazione della versione di Korsakov, non venne portato a compimento. Cioè è probabile che Rimsky-Korsakov abbandonò il progetto quando un suo allievo, un certo Tusmalov, si accinse poi nel 1886 all'orchestrazione dei quadri. Non è chiaro se il maestro abbia un qualche ruolo in questa attività. La versione di Tusmalov includeva però solo 7 quadri, omettendo Gnomo, Tuileries e Bidlo, perché? E tutte le promenade, tranne l'ultima, che era utilizzata al posto della prima. No, siamo un casino. Cioè, qui proprio come gli pareva, davvero. Sì, sì. Proseguendo, poi altri musicisti si cimentarono nell'orchestrazione dei quadri durante il Novecento. Sì, possiamo citarne un tot, tra cui Henry Joseph Wood nel 1915, Leo Funtek, io assolutamente non so chi sia, che però nel 1922 fu il primo a orchestrare tutta l'opera nella sua completezza, tutta per intero, insomma, non l'aveva presa solo a pezzi. La versione però, quella più famosa e quella, insomma, che tutti ricordano, e fra l'altro quella più trovabile di tutte, è quella di Maurice Ravel, come abbiamo detto anche all'inizio, del 1922, quindi diversi anni dopo, e, commissionata da Serge, oddio che nome tremendo, Kusevitzi. Sì, lui. Che ne è stato peraltro anche il direttore, la diretta al Palais Garnier di Parigi. Sì. E vabbè, e niente, questa è essenzialmente la versione di Ravel, che poi è quella più famosa. Ce ne sono anche altre, tra cui Stokowski, chiaramente più di recente, anche qui. Lui, un altro che andò giù di fantasia e di mannaia. Di fantasia, tra l'altro, grande Mari, battutone, perché Stokowski, sì, l'ho fatto apposta. È chiaro, lo so, perché ovviamente era, se vi ricordate, chi sta ben attento, nella puntata di fantasia appunto abbiamo nominato Stokowski perché era il direttore dell'orchestra che musica fantasia di Walt. Potremmo fare il grande quizzone. Sì, sì, alla fine lo facciamo, alla fine dell'anno facciamo proprio i ricchi premi. Il quizzone nerd. Cotillon. Mamma mia, che schifo che facciamo. Veramente, vabbè, a dei livelli, comunque. No, sì, Stokowski l'orchestrò nel 1939, ma non gli tornava quella di Ravel. Certo, figurati. Se gli va bene, e quindi lui ne realizzò una che secondo lui aveva un suono più slavo, e tra l'altro tagliò, cassò completamente la terza e la quinta promenade, sì, perché sì. Bom, basta, si era rotto. Tanto Mussorgsky si rigeva nella tomba. Sì, lui piangeva con Baba Yaga. Esatto. E tagliò pure i brani di influenza francese, Tuileries e Limoges, che lui sospettava Vabbè. essere stati composti da Korsakov. Cosa Che aveva tanto, fatto? effettivamente, Korsakov ha fatto un E casino, quindi? magari li ha composti lui quelli lì. E quindi, vabbè, no, Comunque, cioè. francesi e russi agli americani in quel momento proprio No, non gli via. tornavano molto, per cui via, ecco. E vabbè, e questa è la tragedia su delle orchestrazioni. E ora Esatto. abbiamo la rubrica E quella no, seria. la rubrica seria, veramente. Questa volta non c'è Simpson, ma ci andiamo vicini, perché, vabbè, nel 1971 Emerson, Lake and Palmer pubblicarono l'album Picture and Exhibition, in cui i brani dell'opera, reinterpretati dal trio, si alternano a pezzi originali. E qui Quindi, c'è qui, una dedica, scatta la ecco, dedica scatta la al dedica. rovescio della medaglia, Prog 1 e Prog 40, che sicuramente ci ascolteranno e apprezzeranno questa citazione. Spero di sì, e quindi insomma, appunto, aiutarono a sdoganare ulteriormente i pezzi di Mussorgsky, a dimostrare quanto fossero già in origine molto contemporanei, molto pop, per essere appunto utilizzati. Questo è successo spessissimo nella storia del rock e del pop, ovviamente. Non si inventa nulla. Alcuni brani furono utilizzati come colonna sonora del cartone animato dei Puffi, quindi insomma, attenzione, proprio citazioni colte. Nel 96, e qui andiamo veramente sul trash, ve lo dico, preparatevi, e nel 97, durante l'History World Tour, Michael Jackson fece suonare il brano La Grande Porta prima di cantare la sua ultima canzone. History, appunto, lo stesso pezzo poteva inoltre essere ascoltato nelle prime stampe dell'album History del medesimo artista del 95, sempre all'inizio dell'omonima canzone. Comunque, No, e guarda, altre via via, veramente. fino a che, vabbè, una mia, io qui non posso esimermi, perché veramente nel film Il Grande Lebowski, precisamente durante la rappresentazione teatrale dell'affittuario del Drugo, non so se vi ricordate, il Drugo gli tocca andare, siccome non paga mai l'affitto, il suo landlord, il padrone di casa, il nanetto, lo invita a vederlo a una pièce tragica, direi. E E cosa, cosa balla, cosa ovviamente. interpreta? Lo gnomo, cioè c'è un pezzo dello gnomo di Mussorgsky insieme ad altri pezzi classici famosi. Sottile ironia. Geniale, ovviamente, per i fratelli Coen, quando vogliono. Sanno essere veramente No, e buffi. non dimenterti l'ultima, lo so che ti No, no, no, vergogni no, di dirla. no, no, no, è vero, scusa, non l'ho fatta apposta. Dopo volevo lasciarvi con i Coen, ma ovviamente la Mari mi riporta sempre No, coi no, piedi per dobbiamo, terra. perché la E, vera esatto, la vera citazione. citazione è: nel film Il secondo tragico Fantozzi, la celeberrima sequenza della corazzata Potëmkin presenta in realtà la Promenade come colonna sonora, il che fa capire proprio che gli italiani, come al solito, la buttano in E fa caciara. capire come mai tutti noi, quando abbiamo sentito la promenade, abbiamo detto: Ah, ecco cos'era, ma mi sembrava di averla già La sentita. corazzata Potëmkin, no? Da Esatto. vedere in ginocchio sui ceci, proprio come Fantozzi era obbligato. Esatto. E anche voi in ginocchio sui ceci, anche questa domenica, come ogni domenica, Sì, siete stati costretti, ecco, a tutto siete questo. stati Non so cosa vessati. avete fatto di No, dai, è male, stata divertente meno questa male, penso puntata, non che è sì, vero, no? dai. Speriamo, speriamo. Va bene, vi lasciamo con la sigla di chiusura della Fuga del Gatto che non possiamo mai dare perché sforiamo. Una volta tanto che Eh siamo no, brave, ve vedi. la facciamo sentire che vabbè, è il gioco di Satie dei quattro gatti, l'Union Chanson du Chat, e quindi è bellina, ve la facciamo sentire. E vi diamo appuntamento a domenica prossima, prima domenica di marzo. E vi rammento, oddio, guarda come sono arcaica, No, Fiorentina zio, ma poi arcaica. poliglotta, cioè oggi Mamma veramente. mia. Sì, vi rammento il sito, che poi è la cosa più importante, wombat.noblogs.org, e la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui potete scriverci e mandare tutto. Non potete più mandarci il logo perché scadeva il termine mercoledì, ma potete comunque continuare a contattarci e a dirci le vostre impressioni. Quindi a domenica prossima con la fuga del gatto, sempre su Radio Wombat. Ciao ciao! Ciao ciao! passion d'accordo.